La luna, argentea, saliva nel cielo azzurro, tacita e tranquilla come lo sguardo di Dio su quelle scene di oppressione e di angoscia. I suoi placidi raggi cadevano sul povero schiavo solitario, il quale sedeva, conserte al petto le braccia e con la Bibbia aperta sulle ginocchia. Dio è qui? Com'è possibile che cuori ignoranti conservino la loro fede al cospetto di tanta iniquità, di tanta ingiustizia continua, palpabile? In quelle anime semplici si combatte una gran battaglia. Il sentimento dei propri dolori, la perdita di ogni speranza più vagheggiata, la previsione di una vita infelice per sempre, gli stringevano cuore e mente, come i cadaveri della moglie, dei figliuoli, degli amici sollevati da una cupa onda, si raccolgono intorno al naufrago vicino ad affogare. In quel luogo era possibile credere ancora in qualche cosa, credere alla gran parola della fede cristiana che Dio esiste e che non abbandona chi confida in Lui. Tom si alzò col cuore riboccante di angoscia e si recò barcollando fino al canile che gli era stato assegnato. Il suolo era ingombro di persone affaticate che avevano preso sonno e l'aria corrotta che si respirava là dentro fece indietreggiare Tom, ma la rugiada della notte era gelida, le membra di lui erano intirizzite e dolenti. Ravvolgendosi in una cattiva coperta, componendo il suo letto, egli si stese sopra la paglia e si addormentò. Nel sogno gli parve che una voce soave gli giungesse all'orecchio. Gli sembrava d'essere seduto sopra il sedile erboso del giardino presso il lago di Pontchartrain. Evangelina, col grave suo sguardo abbassato, leggeva nella Bibbia ed egli udiva queste parole: «Quando tu traverserai le acque, io sarò con te». E quando tu valicherai i fiumi, non vi sarai annegato. Quando camminerai in mezzo al fuoco, esso non ti toccherà, né la fiamma ti abbrucerà minimamente, imperciò che io sono l'Eterno, il tuo Dio. La voce che pronunziava queste parole si indebolì a poco a poco, e Tom non udì più altro se non una musica divina. La fanciulla alzò i pensosi suoi occhi e li tenne fissi con tenerezza in quelli di Tom. Raggi di consolazione e di calore celeste penetrarono nel cuore del meschino ed Evangelina, come se quella musica soavissima l'avesse sollevata verso il cielo, parve s'involasse sopra ali fulgide da cui una pioggia di scintille e di stelle d'oro le saliva e ricadeva d'intorno. Tom si svegliò. Era un sogno, si creda pur tale, ma chi può dire che a quell'anima soave di giovinetta, che vivendo aveva sempre anelato di consolare gli afflitti, fosse vietato da Dio di compiere questo pietoso ufficio anche dopo la morte. 33. Cassie. Tom comprese presto che cosa doveva sperare o temere nel suo nuovo genere di vita. Abile operaio, faceva bene qualunque cosa intraprendesse ed era, per abitudine e per principi, ogni ora pronto e fedele. Mansueto per natura, sperava, con la sua instancabile diligenza, di evitare parte dei mali che lo minacciavano nella sua nuova condizione di vita. Le scene di miseria che aveva sott'occhio lo contristavano profondamente, ma egli aveva risoluto di soffrire tutto con religiosa pazienza, di fidar sempre in colui che giudica secondo giustizia, non senza speranze che presto o tardi gli si aprirebbe una via di scampo. Non sfuggivano alle grele le qualità eccellenti di Tom. Lo giudicava uno dei migliori lavoranti e nondimeno Tom era per lui un oggetto di avversione, antipatia naturale dei malvagi verso i buoni. Egli vedeva bene che, come accadeva spesso, quando la sua brutalità e violenza infieriva sopra i deboli, Tom lo biasimava, poiché tanto sottile è l'atmosfera dell'opinione che essa può farsi sentire senza articolar parola. E anche quella di uno schiavo riesce ingrata al suo padrone. Tom aveva manifestato in varie guise un sentimento di affetto per i suoi compagni di dolore, strano e nuovo per essi, che non era sfuggito all'occhio geloso di Legree. Comprando Tom, costui aveva avuto intenzione di farne una specie di agente al quale potesse talvolta, nelle sue brevi assenze da casa, commettere la cura dei suoi affari, ma per essere il supplente di Legree tutte le condizioni necessarie si restringevano in una sola: la crudeltà. Legree, vedendo Tom tanto docile, sperava di avvezzarlo a modo suo e trascorse poche settimane da che Tom si trovava colà, egli risolvette di mettersi all'opera. Una mattina, mentre tutti gli schiavi radunati si disponevano a partire per i campi, un viso nuovo eccitò l'attenzione di Tom. Era una donna di alta statura, di forme svelte, con mani delicate e vestita in modo assai decente. Al vederla, pareva che non oltrepassasse i 35-40 anni. La sua fisionomia era di quelle che non si possono dimenticare quando si sono vedute una volta. Ella rivelava una storia dolorosa e romantica. Aveva la fronte ampia e le sopracciglia disegnate mirabilmente, il naso diritto, regolare, la leggiadra bocca e i graziosi contorni della testa e del collo mostravano che una volta ella era stata molto bella, ma il suo viso era solcato dal dolore e da ambasce fieramente sostenute. Ella aveva la carnagione gialliccia e malsana, le guance scarne, i lineamenti affilati e tutto il corpo macilento, ma i suoi occhi erano di una forma squisita, grandi, neri, adombrati da lunghe ciglia di egual nerezza e pieni di una tetra disperazione. Ciascuno dei suoi lineamenti, ciascuna curva del suo labbro, ciascun movimento del suo corpo esprimeva un'indomabile alterezza e una sfida, mentre il profondo e disperato dolore che le si leggeva negli occhi contrastava singolarmente con l'orgoglio e l'arroganza che si manifestava in tutto il suo portamento. Tom non poteva capire chi ella fosse, ma la turba degli altri schiavi la conosceva, poiché molti si voltavano a guardarla, mormorando sommessamente fra loro con una gioia mal celata di vederla in mezzo ad essi, cenciosi e famelici. Ah, finalmente c'è venuta anche lei! Esclamò uno. Eh, fece un altro. Proverete un bel gusto, buona signora. Oh, la vedremo al lavoro? Bramerei sapere se alla sera avrà come noi la sua parte di frusta. Sarò contento di vederla sotto la sferza, disse un altro. Tom si era messo a lavorare e di quando in quando dava alla sfuggita un'occhiata alla donna e al suo lavoro. Vide che ella aveva un'abilità naturale e perciò eseguiva più facilmente degli altri l'opera sua. Coglieva il cotone con prestezza e bel garbo, ma conservava quell'aria altera e sdegnosa che già dicemmo. Tom, che era sempre vissuto fra persone colte e ben educate, si accorse subito dalla sua aria e dal suo incedere che l'apparteneva a quella classe, ma non sapeva immaginarsi per quali circostanze fosse caduta in sì basso stato. Nel corso della giornata Tom si era trovato lavorando presso la mulatta già comprata nel suo stesso lotto. Ella, come ben si vedeva, era in uno stato di gran patimento e Tom la udiva spesso pregare, quando, esausta di forze e presa dal tremito, pareva lì lì per cadere a terra. Tom, avvicinatesi a lei senza far parola, le pose dentro il canestro manate di cotone che toglieva dal suo. Oh, non lo fate, disse la donna guardandolo con maraviglia, poi vi troverete scarso di lavoro. Appunto allora Sambo era vicino. Pareva che un odio particolare lo muovesse contro quella donna e scuotendo la frusta le disse con voce brutale: «Che tresca è questa, Liusi?» E diede un calcio alla donna col suo scarpone di pelle di vacca e una frustata sul viso a Tom. Questi si rimise al lavoro tacitamente, ma la donna, già sfinita di forze, cadde svenuta. Oh, la farò ben io tornare in sé! esclamò l'aguzzino con un riso feroce. Le applicherò qualche cosa meglio della canfora. E tolto dalla manica uno spillo, glielo conficcò nella carne. La donna cacciò un grido, si sollevò per metà. Su, su in piedi, al lavoro, bestiaccio, te ne farò vedere di più belle. Per alcuni istanti parve che ella acquistasse una forza soprannaturale e lavorò con un'alacrità disperata. Continua a questo modo, altrimenti stasera ti augurerai di morire. Oh, fosse ora, mormorò l'infelice, udita soltanto da Tom, e soggiunse: Oh, signore, fino a quando? Oh, signore, perché non mi assisti? A rischio di una punizione severa, Tom si fece innanzi di nuovo e pose nel canestro della donna tutto il cotone che aveva nel suo. Oh, no, ve ne prego, non sapete che cosa potrà derivarcene, disse la donna. Ho maggior forza di voi per sopportarlo, rispose Tom e tornò nuovamente al suo posto. Tutto ciò avvenne in meno di quanto si dice. Subito la straniera che abbiamo sopra descritta e che si trovava tanto vicina da udire le ultime parole di Tom, Sollevò i neri suoi occhi e li fissò per un breve istante su lui. Presa quindi una certa quantità di cotone dal proprio canestro, la gettò in quello di Tom. Voi non conoscete le usanze di questa piantagione, disse lei, altrimenti non avreste fatto ciò. Fra un mese non aiuterete più gli altri e vi basterà di aver cura della vostra pelle. Me ne guardi Dio, signora, disse Tom, dando istintivamente a quella compagna di schiavitù il titolo di rispetto che già usava con le padrone di cui era stato a servizio. Iddio non visita mai queste parti, disse amaramente la donna mentre continuava il suo lavoro con mirabile agilità. E uno sprezzante sorriso le piegò di nuovo il labbro. Ma l'atto di lei era stato veduto dall'aguzzino che stava in altra parte del campo. Egli accorre e brandendo la frusta le dice con aria di trionfo: Che? Trescate anche voi? Badate, ora siete sotto di me, badate a voi o vi farò ballare senza gusto. Uno sguardo simile a un baleno rischiarò un tratto i neri occhi della donna, che con le narici dilatate si rizzò di fronte a Sambo e lo guardò, ardendo di rabbia e di disprezzo. Cane, disse lei, toccami se ardisci. Io ho ancora bastante potere da farti sbranare vivo dai molossi. Ardere vivo, tagliare a fette, non avrai che da dire una parola. E perché dunque siete qui? Osservò l'uomo, evidentemente intimidito e facendo uno o due passi indietro. Io non voglio farvi del male, Miss Cassie. Tieniti a distanza allora, disse la donna. Ed ella riprese lestamente il lavoro. Tom la guardava stupito, parendogli che la prestezza di lei avesse del magico. Prima della fine della giornata, il canestro della donna era pieno stivato, benché ella avesse posto parecchie manate in quello di Tom. A notte inoltrata, la comitiva stanca si avanzò col canestro in capo verso l'edificio dove il cotone era pesato e riposto in magazzino. Legré si trovava colà intento a discorrere coi due aguzzini. Quel Tom sarà cagione di guai, disse Sambo. Egli ha posto gran cotone dentro il canestro di Lucy. Farà credere a tutti i neri che il padrone non ci bada, che si sono trattati malamente. Certo, maledetto negro, disse Legré. Bisogna addestrarlo, non è vero, figliuoli? A queste interrogazioni i due neri risposero con un'orribile sghignazzata. Oh, sì, il padrone non ha eguali per addestrare un nero. A questo gioco non lo vincerebbe neanche il diavolo, disse Kimbo. Ebbene, figliuoli, il mezzo più sicuro è di fargli frustare gli altri. Sarà difficile indurvelo. Converrà bene che vi si abitui, disse Legré masticando tabacco. Menatelo qui. Quella Lucy poi è la più pigra della piantagione, riprese a dire Sambo. Bada, Sambo, comincio a indovinare la cagione dell'odio che mostri per Lucy. Il padrone sa bene che ella si è ribellata alla sua volontà, perché nonostante i suoi comandi non vuol saperne di me. Obbedirà sotto la frusta, non dubitare, disse Legré. Ma siccome il lavoro è urgente, non bisogna per ora renderla inabile al lavoro. Ella è delicata e le ragazze di quella complessione si fanno ammazzare piuttosto che cedere. Ad ogni modo, Lucy è proprio un'infingarda, non vuol far nulla e Tom lavorava per lei. Ah sì, eh? Ebbene, Tom avrà il piacere di frustarla. Egli comincerà così la pratica del mestiere, ma non saprà mai far le cose meglio di voi altri diavoli. I due sciagurati proruppero in una risataccia veramente infernale che pareva un'adeguata espressione del nome terribile che dava loro il padrone. Ma, padrone, Tom e Miss Cassie le hanno riempito il canestro in modo che vi sarà buon peso. Peserò io stesso, rispose Legré con accento significativo. E i due custodi ricominciarono le loro diaboliche risa. Sicché dunque, riprese egli, Miss Cassie ha fatto la sua giornata? Ella coglie il cotone più lesta del demonio e di tutti i suoi angeli neri insieme. Oh, credo davvero che la lì abbia in sé tutti quanti, soggiunse Legré. E proferendo una bestemmia, si avviò alla sala della pesatura. Lentamente s'avanzarono quegli scoraggiati, affranti di stanchezza, e ciascuno presentava il suo canestro alla stadera, tremando. Legré notava il peso su un'ardesia, di contro ai nomi iscritti. Pesato e approvato il suo canestro, Tom guardava ansiosamente per sapere la sorte della povera donna che gli aveva aiutata. Camminando a fatica, ella venne e presentò il suo canestro. Verrà buon peso, Legree ben lo vide, ma esclamò con finta collera: Che mi porti? Bestiaccia! Non vi è il peso. Ritirati da un lato, avrai quel che meriti e subito. La donna mandò un gemito di tetra disperazione e si assise sopra una panca. Colei che era chiamata Miss Cassie allora si avvicinò e con aria altera e noncurante consegnò il suo canestro. Legree le volse uno sguardo inquieto e scrutatore. Ella, figgendogli nel viso i neri suoi occhi, borbottò alcune parole in francese. Che cosa disse nessuno lo sa, ma all'udirla il volto di Legree si atteggiò un'espressione che aveva dell'infernale. Egli alzò la destra come per batterla, ella lo guardò fieramente e gli volse le spalle. Ora vieni qua, Tom, disse Legree. Sai bene che io non ti ho comprato per porti a un lavoro comune. Intendo promuoverti e far di te un ispettore. Sarà dunque meglio incominciare fin da stasera. Ecco, prendi un po' questa ragazza e dalle una buona dose di frustate. Ne hai veduto quanto basta, sai bene come si fa. Chiedo al padrone mille scuse, rispose Tom. Spero che il padrone non mi metterà a far questo. Non ci sono avvezzo, non lo feci mai e non saprei farlo. Oh, imparerai ben altre cose che non conosci, disse Legree, e tolta da terra una ruvida scarpa fortemente ne colpì la guancia di Tom, poi seguitò a scaricargli addosso una grandine di percosse. Ebbene, disse egli nel fermarsi per riprender fiato, dirai ancora che non puoi? Sì, certo, padrone, rispose Tom, asciugandosi con la mano il sangue che gli grondava dal viso. Io sono contento di lavorare giorno e notte fino all'ultimo sospiro, ma non posso fare quello che non credo giusto e perciò, padrone, io non lo farò mai, mai. Legree stette come sbalordito e confuso, indi proruppe: Che? Negro animalaccio, osi dirmi che non credi giusto quello che io ti comando? E si fa lecito alcun di voi, maledetto bestiame, di pensare quello che è giusto o no? Metterò io un termine a questo abuso. Che credete voi di essere? Pare che tu ti creda un gentleman, messer Tom, per osar di dire al tuo padrone ciò che credi giusto o non giusto. Tu pretendi dunque che sia male frustare questa donna? Così credo, padrone, disse Tom. Quella povera donna è malata e debole. Sarebbe una crudeltà. E io che mai ne commisi non voglio neanche cominciare. Se il padrone vuole uccidermi, lo faccia pure, ma in quanto ad alzare la mano sopra qualcuno qui, io non lo farò mai e piuttosto morirò. Bravissimo! Ecco finalmente un cane devoto sceso dal cielo qui tra noi peccatori, un santo, ministro, né più né meno, che è venuto a convertirci. Che bontà, che virtù edificante! Ma tu, vile furfantaccio, che ti credi così pio e religioso, non hai sentito mai quel che dice la tua Bibbia? Servitori, obbedite ai vostri padroni? Non sono il tuo padrone io? Non ho io pagato 1200 dollari il tuo vecchio carname nero? Non sei mio, tutto mio, corpo e anima? Soggiunse egli dando un violento calcio a Tom. Su, via, rispondi! Benché in preda al più acuto dolore fisico e schiacciato da così brutale oppressione, Tom all'udire quella domanda sentì un raggio di allegrezza e di trionfo brillare nell'anima sua e sollevandosi d'improvviso e volgendo al cielo gli sguardi, mentre lacrime e sangue gli rigavano con misti le guance, esclamò: No, no, la mia anima non è vostra, padrone. Voi non l'avete comprata, voi non potete comprarla. V'è bensì uno che l'ha comprata, che pagò per essa e che ha il potere di custodirla. Non importa, non importa, voi non potete farmi alcun male. Ah, io non posso? Disse Legree ghignando. Ora vedremo. Olà, Kimbo, Sambo, date a questo cane un tal carpiccio che non possa riaversene per 6 mesi. I due neri giganteschi, che corsero con feroce esultanza a impadronirsi di Tom, rappresentavano veramente le potestà delle tenebre. La donna tremò di paura e tutti si allontanarono come di comune accordo mentre i due manigoldi traevano via il povero Tom, senza che gli ponesse resistenza. 34. Storia di Cassie. Era già alta notte. Tom, tutto intriso di sangue, stava gemendo in una stanzaccia disabitata di un magazzino tra frantumi di macchine, cumuli di cotone guasto e altri avanzi di ogni sorta. L'aria umida era piena di zanzare che col loro pungiglione accrescevano la crudele tortura delle ferite. Un'ardentissima sete, il più intollerabile di tutti i tormenti, accresceva strazio a strazio. Buon Dio, volgi a me uno sguardo. diceva l'infelice Tom nella sua ambascia. Dammi la vittoria sopra ogni pena. Dietro a lui si udì un rumore di passi e la luce di una lanterna ferì i suoi occhi. Chi è? Oh, per l'amor di Dio, datemi un sorso d'acqua. Cassie, era lei appunto, posò la lanterna e, versata acqua da una boccia, sollevò il capo del nero e gli diede da bere. Parecchie tazze furono vuotate con un ardore febbrile. Bevete quanto volete, disse lei. Io ben sapevo che cosa avverrebbe. Non è la prima volta che reco nella notte un po' d'acqua a persone come voi. Grazie, signora, disse Tom, dopo aver estinto la sua sete. Non mi chiamate signora. Io sono una misera schiava al pari di voi, più degradata di quanto voi non sarete mai, disse ella amaramente. Ora, soggiunse nello strascinare dalla porta fin presso a Tom un piccolo pagliericcio coperto di tela inzuppata d'acqua. Ora, mio povero amico, procurate di mettervi qui sopra. Fu necessario non poco tempo a Tom per compiere quel traslocamento a cagione delle ferite e delle ammaccature, ma quando fu sopra il pagliericcio, l'applicazione della tela e dell'acqua fredda sulle sue ferite gli fece provare un gran sollievo. Cassie, da lungo tempo abituata a soccorrere le vittime della brutalità, conosceva alcuni mezzi curativi, medicò le piaghe di Tom e questi riprese alquanto le forze. Ecco, disse la donna dopo aver sollevato il capo di Tom e appoggiatolo sopra una balletta di cotone guasto accomodata come un guanciale. Ecco tutto il meglio che io posso fare per voi. Tom la ringraziò. La donna sedette a terra e con ambe le braccia raccolte intorno alle ginocchia lo contemplava in silenzio ma con espressione di profondo cordoglio. Il fazzoletto che le avvolgeva il capo le cadde sulle spalle e le lunghe ciocche della sua nera capigliatura ondeggiarono intorno alla sua singolare e malinconica faccia. A nulla giova, mio sventurato amico, ella disse finalmente, a nulla giova ciò che oggi avete tentato. Voi siete un bravo figliuolo, la ragione era dalla vostra parte, ma vedete, ogni resistenza è inutile. Siete nelle mani del diavolo, egli è il più forte, bisogna cedere. Oh, buon Dio! Esclamò Tom gemendo, come posso cedere? Non giova qui invocare Dio, egli non ascolta mai, disse la donna con voce ferma. Io credo che non vi sia Dio, e se c'è sta contro di noi, tutto è contro di noi, il cielo e la terra, tutto ci spinge verso l'abisso. Come non cadervi? Tom chiuse gli occhi e rabbrividì al suono di coteste parole d'ateismo. Vedete, continuò la donna, voi non sapete nulla di quanto avviene qua giù, ma io so tutto. Sono stata in questa abitazione 5 anni, corpo e anima sotto i piedi di quest'uomo e l'aborrisco al pari del demonio. Voi siete qui, in una piantagione isolata, 10 miglia distante da ogni altra, in mezzo alle paludi. Qui non c'è una sola persona bianca che possa fare da testimonio se voi siete bruciato vivo, tagliato a pezzi o gettato in pasto ai cani o impiccato o flagellato fino alla morte. Qui non esiste legge divina né umana che possa minimamente proteggervi e quest'uomo è capace di tutto, ne rifugge da qualunque enormità. Vi farei rizzare i capelli in testa narrandovi quello che ho visto, quello che so, e non c'è resistenza possibile. Desideravo io forse di vivere con lui, non ero forse delicatamente allevata, ed egli, Dio del cielo, che era e che è mai, eppure, già da 5 anni io sono con quest'uomo e maledico la mia vita notte e giorno, e ora egli ne ha un'altra. Una giovinetta di 15 anni solamente, allevata, ella dice, nella pietà. La sua ottima padrona le insegnò a leggere la Bibbia ed ella ha portato la sua Bibbia qua con sé, nell'inferno. La donna rise di un riso selvaggio e doloroso che echeggiò con un rumore strano sotto quelle volte. Tom congiunse le mani, egli non vedeva che tenebre e orrore. Oh Gesù, ci avete abbandonati del tutto, noi povere creature. Esclamò egli, aiutatemi, signore, o io perisco. Ma la donna, con volto impassibile, continuò: e che sono quei miserabili sozzi cani con cui lavorate, perché meritino che voi soffriate a pro di essi. Alla prima occasione ciascuno di loro sarà pronto a rivolgersi contro di voi. Sono tutti vili e crudeli quanto si possa mai essere gli uni contro gli altri. Nulla, nulla giova che qualcuno soffra per loro. Povera gente, disse Tom. Chi li rese crudeli? Ed io, se cedo, sto per divenire come loro. E mi ci avvezzerò a poco, no, no, signora, tutto perdei, moglie, figli, casa, un buon padrone, un padrone che mi avrebbe emancipato se viveva una settimana di più, perdetti ogni cosa nel mondo per sempre. Ma non posso ora perdere il cielo, ah no, non è possibile che io diventi malvagio. Ma non può essere che Dio ci ritenga responsabili dei nostri peccati, disse la donna. Coloro che ci sforzano a commetterli ne renderanno ragione. Sì, certo, disse Tom, ma questo non toglierà che diveniamo empi. Se io divento indurito di cuore come Sambo e cattivo del pari, che mi importa come ciò accada? L'essere tale è la cosa che mi fa più paura. La donna fissò un attonito sguardo sopra Tom e pareva che un pensiero nuovo le balenasse alla mente. Alfine esclamò fra i singhiozzi: Dio di misericordia! Oh sì, avete ragione! Di grazia, signora. Io li ho veduti gettare il mio abito là in quel canto. Viene la tasca la mia Bibbia, ve ne prego, datemela. Cassie gli porse il libro. Tom l'aprì a una pagina tutta contrassegnata, tutta logora, all'ultima scena della vita di quelli i cui strazi ci riscattarono. Se la signora volesse avere la bontà di leggere in questa pagina, ciò fa meglio che il ristoro dell'acqua fresca. La donna prese freddamente il libro e posti gli occhi sul passo indicato, lesse con accento di singolare dolcezza quella mirabile narrazione di patimenti e di gloria. Spesso nel leggere la sua voce tremolava e le veniva meno, ed ella si interrompeva allora con rigido aspetto fino a che tornasse alla padronanza di sé medesima. Quando giunse alle parole commoventi, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gettò il libro per terra e coprendosi il viso con le mani e con la chioma sciolta, si diede a singhiozzare con una veemenza convulsa. Anche Tom piangeva e di quando in quando proferiva un'ardente preghiera. Ah, se noi potessimo sempre imitare tanta rassegnazione, disse Tom. A lui era cosa tanto naturale ciò che a noi costa tanta fatica. Oh, Signore, aiutateci. Oh, Dio benedetto, venite in nostro soccorso. Signora, soggiunse dopo alcuni istanti di silenzio, vedo bene che mi superate in ogni cosa, ma ve n'è una che il povero Tom può insegnarvi. Avete detto poco fa che il Signore sta contro di noi perché ci lascia martoriare, ma vedete quale strazio ha permesso del suo figliolo, il benedetto Re della Gloria. Soffrimo noi forse gli obbrobri che egli ebbe a soffrire. Il Signore non ci ha dimenticati, ne sono certo. Se patiamo con lui, dice la Scrittura, regneremo pure con lui, ma se lo rinneghiamo, egli rinnegherà noi. Che cosa non patirono? Il Signore e i suoi discepoli furono lapidati, cacciati, errarono per deserti, vestiti non d'altro che di pelli ferine, afflitti, travagliati. Se soffriamo, non è una ragione per credere che il Signore sia contro di noi, anzi tutt'altro, purché si abbia fede in lui per non peccare. Ma perché ci mette al cimento di peccare? Chiese la donna. Credo che possiamo guardarci dal peccare, rispose Tom. Vedremo, soggiunse Cassie. Che farete mai? Domattina vi saranno di nuovo intorno e so io che cosa sono capaci di farvi. Dovrete soccombere alla fine. Gesù, signor mio, esclamò Tom, abbiate cura dell'anima mia. Oh, signore, salvatemi dal peccato. Amico mio, disse Cassie. Udii più volte queste preghiere e questi lamenti, ma tutti, alla fine, dovettero cedere. Anche Melina sta lottando come voi, ma a che serve? Dovrete cedere o vi faranno a brandelli. Ebbene, morirò, disse Tom. Prolunghino come più loro piace i miei tormenti, ma non potranno impedire che io muoia una volta, e dopo sarò libero. Ho risoluto e non li temo, e Dio mi aiuterà e mi reggerà fino all'ultimo punto. La donna non rispose, stava immobile con gli occhi fissi a terra. Questa sarebbe una via di scampo, forse, diceva come parlando a se stessa, ma per coloro che hanno ceduto non c'è più alcuna speranza. Noi viviamo nel fango, destiamo ripugnanza a noi stessi, vorremmo poter morire, né abbiamo il coraggio di ucciderci, non c'è più speranza, no. Quella giovinetta ha proprio l'età che avevo io. E ora vedete ciò che sono divenuta, soggiunse tosto parlando a Tom rapidamente. Eppure io ero stata allevata nel lusso. La più antica memoria che ho della mia fanciullezza è quella di splendide sale, dove mi godevo in giuochi e trastulli, vestita con una come una bambola e carezzata dalla famiglia e dagli amici di casa. Le finestre del salotto davano sopra un giardino e colà io mi sollazzavo sotto gli aranci con i miei fratelli e le mie sorelle. Fui mandata in convento, vi imparai la musica, la lingua francese, il ricamo e altro. A 14 anni ne uscii per assistere alle esequie di mio padre. Egli morì di morte subitanea e quando si fece l'esame di tutti i suoi affari si verificò che i fondi non erano sufficienti per pagare i debiti. I creditori fecero un inventario della sua proprietà e vi scrissero anche me. Mia madre era schiava, mio padre aveva sempre avuto in animo di emanciparla, ma per il suo troppo indugiare anch'io mi trovai in quella lista. Io ben conoscevo la mia condizione, ma non ci avevo mai fermato il pensiero. Nessuno si aspetta di veder morire un uomo robusto e sano. Mio padre era pieno di salute 4 ore prima della sua morte. Fu quello uno dei primi casi di colera di New Orleans. L'indomani della sepoltura, la moglie del padre mio prese i suoi propri figli e se ne andò alla piantagione di suo padre. Mi parve di essere trattata in un modo singolare, ma non ci badai molto. Eravi colà, un giovane avvocato speditovi per porre le cose in ordine. Egli veniva tutti i giorni e mi parlava con gran gentilezza. Una volta menò seco un giovane, il più bello che io abbia mai visto. Quella sera non la dimenticherò mai più. Passeggiavamo nel giardino, io ero sola e piena di tristezza ed egli si mostrava a me con tanto buono e gentile. Mi disse che mi aveva veduta prima che io andassi in convento, che da lungo tempo mi amava e che voleva essere mio amico e protettore. Insomma, benché non me lo dicesse, egli aveva pagato per me 2.000 dollari e io ero sua proprietà. Lo divenni volentieri perché lo amavo. Sì, lo amavo, disse la donna soffermandosi. Oh, quanto amai quell'uomo! E adesso l'amo ancora e l'amerò sempre. Egli era così bello, così nobile, così generoso. Mi collocò in una bellissima casa con servi, cavalli, carrozze, ogni sorta di arredi e di vesti, tutto ciò che il denaro poteva procurarmi. Ma niente aveva gran valore agli occhi miei. Io non pensavo, non vedevo che lui l'amavo più che il mio Dio, più che la mia anima, e quand'anche mi ci fossi provata, mi sarebbe stato impossibile di non fare tutto quello che gli voleva da me. Io non avevo che un desiderio ed era di poter divenire sua moglie. Pensavo che se egli mi amava come diceva e se io ero quale gli dimostrava di credermi, consentirebbe di buon grado a farmi libera e sposarmi. Ma egli mi persuase che era impossibile. Contentiamoci di essere fedeli l'uno all'altro, diceva. Questo è matrimonio innanzi a Dio. E se ciò fosse vero, non si potrebbe dire che io ero la moglie di quell'uomo, non gli ero fedele. Per 7 anni non vissi, non respirai che per piacere a lui. Ma egli si ammalò di febbre gialla e per 20 giorni e 20 notti io lo vegliai, gli somministravo io sola tutti i rimedi, facevo per lui ogni cosa. Allora egli mi chiamava il suo buon angelo, diceva che io lo avevo salvato. Noi avevamo due bei figlioletti. Il primo era un maschio a cui davamo il nome di Enrico ed era il ritratto di suo padre. Io vedo ancora i suoi begli occhi neri, la sua larga fronte tutta cinta di capelli ricciuti. La piccola Elisa assomiglia a te, egli diceva. Sempre ripeteva che non v'era donna più bella di me nella Louisiana e che egli andava fiero di me e dei miei figli. Si dilettava di farci vestire splendidamente e condurci al passeggio in carrozza, scoperta, per udire ciò che la gente diceva di noi. Ah, che giorni felici erano quelli! Ma vennero i giorni tristi. Un suo cugino di nome Battles venne a New Orleans. Egli ne aveva il più alto concetto, ma non so come, la prima volta che io vidi costui mi fece paura ed ebbi un presentimento delle sventure che doveva cagionarmi. Egli conduceva seco Enrico e spesso lo teneva fino alle 2 o alle 3 dopo mezzanotte. Lo introdusse nelle case da gioco ed Enrico era uno di quegli uomini che quando hanno posto piede là non se ne possono più staccare. Il cugino gli procurò quindi la conoscenza di una signora e ben presto mi avvidi che il suo cuore non era più per me. Non me lo diceva, ma io me ne accertavo di giorno in giorno, mi sentivo morire di passione, ma non potevo dire una parola. L'ho sciagurato. Gli si offerse di comprare me e i nostri figli per pagare i debiti di giuoco che gli impedivano di ammogliarsi come desiderava, ed egli ci vendette. Un giorno mi disse che aveva da fare in campagna e che starebbe 2 o 3 settimane assente. Mi parlava con maggior benevolenza del solito. Disse che tornerebbe, ma io non mi illusi. Sapevo che era giunta l'ora. Pareva che io fossi trasformata in sasso, né potevo dir parola o piangere. Ci abbracciò, i figli e me, e partì. Lo vidi montare in sella e lo seguii con gli occhi fino a che sparve, poi caddi tramortita. Allora venne quel maledetto per prendere possesso di noi. Disse che aveva comprato me e i miei figli e mi mostrò le carte. Io gli imprecai dinanzi a Dio e gli dissi che sarei morta piuttosto che vivere con lui. Come vi aggrada, rispose egli, ma se non vi comporterete ragionevolmente, io venderò i 2 figli e li manderò così lontano che non ne avrete più notizia. Soggiunse che fin da quando mi aveva vista la prima volta si era fitto in capo di avermi, che aveva condotto Enrico alla necessità di contrarre gravosi debiti al fine di incitarlo a vendermi, che aveva facilitato le sue relazioni d'amore con un'altra donna e che io dovevo persuadermi alla fine come non giovassero a nulla gli sdegni, le lacrime e altrettante cose. Io cedetti perché avevo le mani incatenate, egli teneva in suo potere i miei figli, se io gli resistevo parlava di venderli e fui costretta a sottopormi alle minime sue volontà. Oh, che vita! Col cuore spezzato ogni giorno, tormentata dalle rimembranze di un amore che formava la mia infelicità e legata a un uomo che io aborrivo. Mi ero dilettata per l'addietro nel leggere ad Enrico, giocare in sua compagnia, danzare con lui. Ma qualunque distrazione mi era impossibile con Battles. Ciò che io facevo per lui era a forza e tuttavia non avevo coraggio di disobbedire. Egli era imperioso e duro coi fanciulletti, Elisa era una creaturina timida, ma Enrichetto fiero e ardito come suo padre. Egli trovava sempre qualche cosa da ridire contro di lui. Io mi ingegnavo di rendere il fanciullo rispettoso e di tenerlo in disparte perché ogni bene era riposto nei miei figli, ma tutto fu vano. Egli vendette i 2 fanciulli. Mi condusse un giorno al passeggio nella sua carrozza e quando tornai i miei figli non c'erano più. Mi disse che li aveva venduti e mi mostrò il denaro, il prezzo del loro sangue. Mi parve allora di essere abbandonata da tutti, maledissi, forsennata, iddio e gli uomini, e credo che per un istante egli avesse paura di me. Disse che i miei figlioletti erano venduti, ma che il farmeli rivedere non dipendeva se non da lui e che se io non mi calmavo essi ne avrebbero pagato la pena. Io mi sottomisi con la speranza che egli mi aveva data di ricomprarli e 1 o 2 settimane trascorsero in questo modo. Un giorno io passavo dinanzi alla Cala House, vidi un crocchio di gente alla porta di quel carcere, udii la voce di un fanciullo e nell'istante medesimo Enrichetto, il mio Enrichetto, scappando di mano a 2 o 3 uomini che si sforzavano di tenerlo, si scagliò addosso a me strillando e avviticchiandosi alle mie vesti. Coloro vennero a me proferendo bestemmie orribili e uno di essi, la cui faccia non scorderò mai, mi disse che non intendeva di lasciarselo fuggire di mano e che gli avrebbe dato un buon ricordo. Mi provai a supplicare, a implorar pietà, risero di me. Il povero fanciulletto piangeva, mi guardava con aria supplichevole e si stringeva al mio fianco. Lo strapparono, strappando con lui una parte delle mie vesti. E lo trascinarono via mentre gli strillava con voce lamentevole e disperata: Mamma, mamma! Fuori di me, corsi a casa. Mi pareva ad ogni passo di udire i gemiti del figlio mio. Trovai Batos nella sala, lo pregai fervidamente a interporsi affinché il mio figlioletto non fosse martoriato con la frusta. Egli si pose a ridere, dicendo che ben gli stava e che era duopo al fine domarlo interamente e che più presto era meglio era, e soggiunse: che sperate da me? In quell'istante mi parve che qualche cosa nella mia testa si spezzasse. Caddi in un delirio di furore. Mi rammento che vidi sulla tavola un grosso coltello da caccia, che l'afferrai e che con esso mi avventai contro di lui. Tutto divenne oscuro da quell'istante, più non seppi altro per parecchi giorni. Quando rinvenni, mi trovai in una bella camera, che non era la mia. Una vecchia nera mi vegliava, Il medico si recò a vedermi, mi veniva prodigata ogni diligente cura. Seppi ben presto che Battles se n'era andato via e mi aveva posta colà per essere venduta. Ecco perché mi usavano tanti riguardi. Io non volevo guarire e in verità speravo che sarei morta, ma a mio dispetto la febbre cessò. Recuperai la salute. Ogni giorno mi facevano indossare le mie vesti più belle, persone ragguardevoli venivano e andavano, fumando i sigari, mi guardavano al loro bell'agio e discutevano sul mio costo. Ma io ero così malinconica che nessuno si risolveva a comprarmi. Fui minacciata della frusta se non mi mostrassi allegra e non facessi ogni sforzo per rendermi più gradevole. E finalmente si presentò un signore di nome Stewart, il quale parve avesse compassione di me, egli venne spesso a trovarmi e mi indusse a fargli il racconto delle mie sventure. Poi mi comprò e mi promise di fare quanto era in lui per ritrovare e comprare anche i miei figli. Andò all'albergo nel quale era il mio Enrichetto e qui vi seppe che gli era stato venduto a un piantatore del fiume della Perla. Quanto a mia figlia, gli riuscì di scoprirla presso una vecchia, ma costei ricusò di vendergliela a qualunque prezzo. Il capitano Stewart, che per dire il vero mi trattava con molta amorevolezza, possedeva una bella piantagione, e colà mi condusse. E un anno dopo divenni madre di un bimbo. Oh, di quale amore io amavo quel mio povero figlio e quanto somigliava al mio Enrichetto, ma io ero risoluta, sì, risoluta di non lasciar vivere alcuno dei miei figli dei quali avrei potuto ancora essere madre, fino a divenir grandicello. Perciò, 2 settimane dopo la sua nascita, io presi il poverino tra le mie braccia, lo baciai e lo ribaciai bagnandolo delle mie lacrime, poi gli diedi dell'estratto d'oppio sul mio seno e gli si addormentò e morì. E allora come lo piansi e quali grida non alzai sulla sua piccola spoglia? Chi non avrebbe pensato che io gli avessi dato quel mortifero liquore per sbaglio? Invece, non v'è forse altra cosa della mia vita che io goda più d'aver fatta. Sì, ne sono contenta. Che cosa potevo dargli di meglio che la morte, povero bimbo mio? Poco dopo il colera sopraggiunse e il capitano Stewart morì. Tutti coloro che avevano cara la vita morirono. Io, quantunque fossi alle porte del sepolcro, io vissi. E allora fui di nuovo venduta e passai da uno all'altro padrone, avvizii, invecchiai per le febbri, per patimenti, finché giunse questo sciagurato. Mi comprò e mi condusse seco ed ecco come mi trovo qui. La donna tacque. Nel narrare la sua storia, ora si rivolgeva a Tom con l'eloquenza più appassionata, ora parlava con se stessa come se fosse sola. La sua parola era improntata di tanta passione, di tanta forza, che Tom si dimenticava talvolta lo spasimo delle proprie ferite e sollevandosi sul gomito la seguiva con lo sguardo mentre lei, irrequieta, passeggiava per la stanza e scuoteva sulle spalle la nera chioma. «E voi dite che c'è un Dio?» proseguì la donna dopo alcuni momenti. Un Dio che guarda dal cielo e vede tutte queste cose. Chissà, forse è vero. Le suore nel convento parlavano di un giudizio universale in cui ogni cosa verrà in luce. Oh, quale vendetta non sarà mai fatta in quel giorno. Credono che sia nulla ciò che noi soffriamo. Eppure, talvolta, nell'aggirarmi per le vie, mi parve che nel mio cuore fosse un tal carico di angoscia da far sprofondare la città. Io mi augurai 1000 volte che le case mi piombassero addosso o che la terra mi inghiottisse. Sì, e nel giorno del gran giudizio mi leverò nel cospetto di Dio, testimoniando contro coloro che hanno distrutto corpo e anima i miei figli e me. Quando ero zitella, me ne ricordo, sentivo religiosamente, amavo Dio e solevo pregare. Ora sono un'anima perduta, inseguita dai demoni che mi torturano notte e giorno, essi mi spingono e uno di questi giorni mi faranno commettere qualche cosa, soggiunse stringendo il pugno mentre un lampo di follia le passava negli occhi. Lo manderò dove merita, lo manderò dove merita una di queste notti a costo di essere bruciata viva. E uno scroscio di risa selvagge che finì in un singhiozzo convulso, risuonò per la stanza. La donna si gettò sul pavimento, dibattendosi furiosamente. Di lì a pochi momenti parve che quell'accesso di frenesia dileguasse. Si alzò lentamente e si ricompose. Posso fare qualche altra cosa per voi, pover'uomo? Domandò poi avvicinandosi a Tom. Volete ancora un po' d'acqua? Nella voce e nei modi di Cassie vi era una tale dolcezza e un accento di così viva compassione che troppo contrastavano con l'indole selvaggia dimostrata poc'anzi. Tom bevette l'acqua e la guardò gravemente e pietosamente in viso. Oh signora, io desidero che andiate da colui che può darvi acqua viva. Andare da lui? Ma dove? Chi è? Rispose Cassie. Quegli del quale mi leggevate, il Signore, disse Tom. Io ero solita di vederne l'immagine posta sopra l'altare quando ero piccina, soggiunse Cassie, e gli occhi di lei, fissandosi, esprimevano una malinconia profonda. Ma egli non è qui, continuò. Qui non vi è altro che peccato e lunga, lunga, lunga disperazione, ahimè. E Cassie si appoggiava la mano sul petto, respirando con forza, come per sollevare un peso gravissimo. Parve che Tom volesse parlarle ancora, ma ella gli impose silenzio. Non v'affaticate, disse, e procurate di dormire se vi è possibile. Poi avvicinò l'acqua a lui, l'accomodò perché potesse prenderne al bisogno e se ne andò.